mezzo a noi. Vino in mezzo a noi, ma non è uno di noi. No, no, no. Vorrei poter dire che vorrei essere stato diverso, un po' più coraggio, più sicuro di me stesso. Perso nei miei pensieri, mi confido in questo verso. Non c'è modo di spiegare il mio universo. Se solo non fossi tanto insicuro, sarei alla ricerca di risposte per spiegare questo buio così oscuro. Perché so di sicuro che sto solo in mezzo a tanti, in un viaggio profondo e introspettivo, alla ricerca di me stesso, in cui lo stesso obiettivo non espresso quanto vivo immerso. E scrivo ogni mio verso come punto d'arrivo ad ogni gesto. E non ho un pretesto che mi porti a cambiare se non questo testo. Perché mi sento un codardo e mi detesto. E vesto panni che mi stanno troppo stretti. Vorrei non essere costretto a rivederti. Vino in mezzo a noi, ma non è uno di noi. Vive i suoi pensieri solo coi pensieri suoi. Solo in mezzo a tanti cresce con i suoi eroi. Cammina in mezzo a noi, ma non è uno di noi. Cammina in mezzo a noi, ma non è uno di noi. Vive i suoi pensieri solo coi pensieri suoi. Solo in mezzo a tanti cresce con i suoi eroi. Cammina in mezzo a noi, ma non è uno di noi. Sento quell'aria di malinconia che mi perseguita, sentire sola in mezzo a questa gente. Mi sento quasi vuoto dentro me, non c'è niente. Il cielo lo sento pesante, come se mi volesse schiacciare. La folla mi volesse evitare. Sono perseguito, distrutto da una bestia che ha solo una fottuta testa. Lei che mi avvelena la vista con le sue monde gesta. Mi stendo su quel letto, l'unico modo per sentirmi protetto da quest'aria putrida che mi circonda. Mi sento stretto come nelle spine di una anaconda. Faccio fatica a respirare. Sono appiccicato tra le tele del male. Nel mio corpo sento come se avesse mille lame. Così fredda sento un tremolio nella mia pelle. Cammina in mezzo a noi, ma non è uno di noi. Vive i suoi pensieri solo coi pensieri suoi. Solo in mezzo a tanti cresce con i suoi eroi. Cammina in mezzo a noi, ma non è uno di noi. Cammina in mezzo a noi, ma non è uno di noi. Vive i suoi pensieri solo coi pensieri suoi. Solo in mezzo a tanti cresce con i suoi eroi. Cammina in mezzo a noi, ma non è uno di noi. Oggi io penso che sia inutile raggiungere un obiettivo conclusivo, perché vivo con il terrore che qualcuno me la mette in culo. Sono un fuggitivo, scappo dalla gente falsa, preferisco un lassativo. Sarei il primo a dire che scappare non è una soluzione giusta, ma non ho più fiducia nella giustizia prevista dei potenti che comandano di destra e sinistra. Mi chiudo nel mio mondo, vorrei che realmente esista. Potrebbe essere un mio problema creato da una mente estrema, senza schema, ma che sa che tutto gira intorno ad un sistema. Come per risolvere un problema vi è un teorema, intanto la gente innocente trema. E la violenta bestia pensa che tutto può andar bene nel futuro. Fatti il culo, egoista, vai da uno psicanalista, oppure vai dall'esorcista. E se non vedi bene vai dall'oculista. Cammina in mezzo a noi, ma non è uno di noi. Vive i suoi pensieri solo coi pensieri suoi. Solo in mezzo a tanti cresce con i suoi eroi. Cammina in mezzo a noi, ma non è uno di noi. Cammina in mezzo a noi, ma non è uno di noi. Vive i suoi pensieri solo coi pensieri suoi. Solo in mezzo a tanti cresce con i suoi eroi. Cammina in mezzo a noi, ma non è uno di noi.